24 mattino di Alessandro Milan. Quando scoccano le 7:21 minuti, eccoci cari ascoltatori, in diretta su Radio 24 fino alle 9, concludiamo la settimana di 24 mattino, siamo anche su Facebook, ci trovate nella nostra pagina 24 mattino. Di cosa parliamo nel nostro sondaggio? Beh, parliamo del salvataggio, ben accetto, atteso, con i nuovi fondi per la cultura, se non che... questi fondi verranno trovati grazie a un aumento delle accise sulla benzina. Tassa sulla benzina per sostenere la cultura in Italia. Siete d'accordo? Questo è il tema del nostro sondaggio. Ne parleremo alle 8:30. Voi votate su radio24.it. 24 mattino. L'intervista. Alle 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Voglio salutare il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, anche il presidente della Regione Reggio Emilia, Vasco Errani. Buongiorno. Buongiorno, Emilia Romagna. Sì, certo, Emilia Romagna. L'ho attribuito il sindaco di una città, presidente dell'Emilia Romagna, ma certo. Senta, presidente Errani, ieri c'è stato il passaggio importante per quel che riguarda il federalismo regionale. Qual è l'aspetto più importante? Il blocco dell'addizionale IRPEF fino al 2013? No, l'aspetto più importante, guardi, è questo. Primo, che si riconosce di fatto con questo decreto, per come sono stati accolti una serie di emendamenti, che per attivare il federalismo fiscale occorre di fatto rivedere la manovra finanziaria che aveva tagliato in modo insostenibile le risorse per servizi e verso le imprese, i cittadini, le regioni. E dunque si dice bisogna che si parta col federalismo fiscale nel 2013 rivedendo quei tagli, diversamente è obiettivamente difficile poter pensare che il federalismo sia in grado di dare servizi e non aumentare le tasse. Questo è il punto più rilevante. Perfetto, per questo siete anche contenti dei credo 425 milioni che sono stati garantiti al trasporto pubblico locale? Quella è una impegnativa e difficile battaglia fatta dalle regioni per recuperare in primo luogo una parte di quei tagli di cui ho parlato prima della manovra dell'estate scorsa, che colpiva in modo pesantissimo il trasporto pubblico locale, mettendo un servizio già molto critico per i cittadini in una situazione ingestibile. E quindi è un fatto positivo avere reintegrato parte di questi fondi, ma nel decreto c'è un'altra cosa molto importante che fa parte di un accordo che noi avevamo siglato col governo a dicembre dello scorso anno, e cioè che dal 2012, dal 1 gennaio 2012, sì, si deve fiscalizzare il trasporto pubblico locale, onde evitare di rimanere sospesi alle manovre economiche per un servizio così fondamentale per i cittadini. Sì. Senta, oggi su un'elaborazione del Sole 24 Ore spiega anche che regioni come il Piemonte, la Lombardia o come la sua regione, come l'Emilia Romagna, possono già abbassare, diciamo, l'aliquota del 9 per 1000 sforata dell'IRPEF, perché non è diciamo, questo sforamento dovuto a coprire i buchi nella sanità, e quindi si potrà limare da subito questo prelievo riportandolo appunto al tetto del 9 per 1000. Questa cosa è fattibile secondo me? Guardi, io non so che cosa si non ho visto lo studio del Sole 24 Ore. Per quello che riguarda per esempio la mia regione, noi abbiamo messo un addizionale per sostenere il fondo per la non autosufficienza. La mia regione investe più di 500 milioni nel fondo nella non autosufficienza. Tenga conto che questo fondo nel 2011 in Italia è pari allo zero e nel 2010 era complessivamente per tutto il paese di 400 milioni. E dunque lei capisce che qui stiamo parlando di un servizio essenziale per i cittadini, essenziale, perché non c'è famiglia che in modo diretto o indiretto non faccia i conti, considerando l'evoluzione demografica, col problema della non autosufficienza. Ed è un servizio fondamentale. Quindi l'addizionale ci vuole. Senta, Presidente, le voglio fare un paio di domande ancora sull'altra vicenda, quella dei profughi o richiedenti asilo che potrebbero venire, visto che lei ha preso parte anche a questo tavolo, come tutte le regioni, col Viminale. Oggi Libero titola: arriveranno solo al nord, cioè il sindaco Alemanno ha detto in Lazio i richiedenti asilo non c'è spazio, o a Roma e anche la Polverini, in Lazio no, la Sicilia pare verrà risparmiata, la Calabria anche, cioè non è che poi dopo alla fine prevarranno degli interessi locali? Guardi, io sto alle cose che ci siamo detti al tavolo con il ministro Maroni. Lì le regioni, tutte le regioni, i comuni e le province, insieme al governo, il ministro Maroni, abbiamo preso una decisione, e cioè che proporzionalmente, in uno sforzo di solidarietà nella gestione dell'emergenza umanitaria, ciascuno fa la propria parte, che è l'unica strada seria e responsabile per un paese, per una nazione. Abbiamo fatto queste straordinarie giornate sul 150 anni dell'Unità d'Italia, dobbiamo essere coerenti. E però questi distinguo lei come li prende? Adesso siamo in attesa della proposta del piano da parte del ministro Maroni e poi lo dovremo condividere. Sulla base di questo ciascuno si assumerà le proprie responsabilità. Quindi questi ma una decisione è già stata presa. No, certo, però questi distinguo lei come li interpreta oggi? Cioè non valgono perché io sono... Guardi, capisco tutte le difficoltà che ci possono essere nella gestione di una partita così complicata, ma certamente tutti capiranno che non ci si può astrattamente chiamare fuori. E questo è il punto più importante. Io intanto la ringrazio, Presidente, per essere stato con noi. Grazie a lei, Presidente, buon lavoro. Della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Presidente della Regione Emilia-Romagna, certo, non della Regione Reggio Emilia, Vasco Errani, per essere stato con noi. Dopo la pubblicità e dopo il meteo parliamo del nostro sondaggio, allora, di questo fondi reintegrati per la cultura. È stato un grido di dolore di cui Radio 24 si è fatta anche portatrice, quest'Italia, la cultura, preservare il patrimonio nazionale, tagli che hanno portato anche le dimissioni del ministro Bondi, tagli che sono stati finalmente reintegrati. E sono rientrati. E però c'è questa cosa che ha fatto arrabbiare e fa arrabbiare anche molti italiani. I tagli alla cultura vengono recuperati come ponendo una tassa, di fatto aumentando l'accisa sulla benzina. Si va a colpire la benzina. E dunque qualcuno dice: ma come? Va bene salvare la cultura, ma perché si deve farlo andando a recuperare i fondi proprio mettendo una tassa sulla benzina? Era proprio necessario? Non c'erano altri modi? Questo è il tema del nostro sondaggio: una tassa sulla benzina per sostenere la cultura in Italia. Siete d'accordo? Votate su radio24.it, per ora è un plebiscito di, io credo, 88% di no. Potete anche intervenire 800 24 00 24. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? E allora, una tassa sulla benzina per sostenere la cultura. Siete d'accordo? Questo vi poniamo come domanda. Devo dire che, ripeto, pare un po' un plebiscito. Votate su radio24.it. L'88% di chi vota per il momento dice di no. Intanto gli ospiti, voglio salutare l'onorevole Gabriella Carlucci, buongiorno, del Popolo buongiorno, della Libertà. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Fa parte anche della Commissione Cultura e anche ha proposto un interessante ha fatto una proposta di legge sul mondo del cinema, che ci spiegherà. Saluto anche sullo spettacolo dal vivo. E anche sullo spettacolo. Saluto anche il professor Carlo Lottieri, buongiorno professore. Buongiorno. Che è a Siena e cofondatore dell'Istituto Bruno Leoni, Istituto Bruno Leoni che spesso ha monitorato la questione delle accise. Cos'è un'accisa e cos'è l'accisa sulla benzina, professore? E poi le chiedo anche che ne pensa di questa vicenda. Ma in termini molto semplici è un'imposta e, come diceva appunto il sottosegretario Letta, è un'imposta che grava sulla popolazione nella sua interezza, il consumatore diciamo di benzina alla pompa, ma poi in generale gli altri prodotti, perché sono, come dire, oneri che vanno poi a gravare su tutto il resto e quindi, essendo distribuita su tutta la popolazione, in qualche modo viene percepita dalla classe politica, non a torto, come una buona imposta, cioè facile da introdurre, perché si pesa un pochino su tutti e quindi ognuno, come dire, sopporterà la cosa. Ovviamente ha effetti disastrosi sull'economia questo tipo di strategie in generale. Senta, quando Gianni Letta dice un piccolo sacrificio, se fatto il calcolo, potrebbe essere di 1-2 centesimi l'aumento delle accise, e il calcolo anche dei consumatori porterebbe a pensare che nell'arco di un anno un consumatore dovrebbe spendere un 20 euro. Effettivamente la cifra non è esagerata, 20 euro in un anno. È forse più il principio che infastidisce? No, io credo che sia proprio non solo il principio, ma anche il fatto, perché questo, vede, non sono i 20 euro, questo è un caso insieme a mille altri, insieme a molti altri. Cioè, lo stato sociale, la spesa pubblica, il nostro debito alla fine crescono in questa maniera. Come dire, con tutta una serie di provvedimenti di questo tipo, ma appunto una miriade di provvedimenti di questo tipo, che creano un piccolo gruppo di persone, in questo caso gli artisti, che sono molto motivati a ottenere una certa decisione, e poi una popolazione, come dire, che non è motivata proprio perché deve pagare un centesimo in più, non so se mi spiego, ma è in questa maniera che l'Italia sta andando così male, insomma, non solo l'Italia, ma in particolar modo l'Italia. Allora, onorevole Carlucci, prima di venire alla spiegazione di questa tax shelter, ci dica che cosa ne pensa, insomma, di questa. Lei non è un po' imbarazzata a dire è giusto salvare il cinema, salvare la cultura? Ripeto, Radio 24 è in prima fila da sempre a dire questo, però farlo così sembra un po' una cosa perfida, no? Allora, io voglio porre alla vostra attenzione, anche all'attenzione di chi ci sta ascoltando, un problema molto grave e molto serio. Al di là del fatto che, e voi siete stati, come ha detto lei, in prima linea nella difesa del nostro patrimonio culturale, delle attività di spettacolo e di cultura, noi dimentichiamo sempre da questo discorso i 400.000 lavoratori dello spettacolo. Ora, quando il mondo dello spettacolo va in piazza, purtroppo si vedono solo le facce conosciute, gli attori conosciuti, i registi famosi, per cui anzi la gente dice: ma questi che cosa vogliono, visto che sono miliardari? Peccato che i miliardari del mondo dello spettacolo sono una piccolissima minoranza, sono forse un 1-2%. Tutto il resto è fatto da lavoratori precari che non arriveranno mai a prendere la propria pensione, che fanno una vita infernale. Pensate a quelli che fanno le tournée, il famoso scavalca montagna. Ecco, di questi lavoratori, che sono 400.000, non parla mai nessuno. Ora, con un taglio del 50% del FUS, a giugno molti teatri sarebbero chiusi, molte compagnie di danza, di spettacolo, i circuiti sarebbero chiusi. E questa è una denuncia che ci ha visto appunto in prima linea a dire è sbagliato. Questo significava che molte persone sarebbero andate a casa. Tra l'altro, nel mondo dello spettacolo non esistono le casse integrazioni, non esistono previdenze di nessun tipo. Pensate ancora, e questo per questo io mi sto battendo in Parlamento, che mentre per esempio i rappresentanti di commercio che vanno in giro e devono spendere per poter ottenere il loro reddito finale, quindi spendono la benzina, l'albergo, il mangiare, e possono dedurre dalle tasse queste spese, i lavoratori dello spettacolo no. Quindi il lavoratore dello spettacolo che fa la tournée e quindi spende l'albergo, l'aereo, il mangiare, tutto quanto se lo vede riconferire come compenso. Quindi la beffa, ci paga pure le tasse sopra. Questo sicuramente, però onorevole, voglio dire, aggiungiamoci anche la difesa del patrimonio culturale, cioè c'è quello chi ma è sicuramente allora, abbiamo festeggiato il 150esimo anniversario d'Italia. E va bene tutto. L'Italia era un paese culturale, era una nazione culturale prima di avere una coscienza politica. Quindi noi dobbiamo difendere questa cultura pazzesca che ci contraddistingue in tutto il mondo. La musica è nata in Italia, il pianoforte è nato in Italia, Stradivari è nato in Italia, per parlare solo di... Ma nessuno, però nessuno, onorevole, contesta il fatto. È la questione del metodo che si è ottenuto. Un centesimo. Si tratta, e appunto distribuito su tutta la popolazione. Ricordo poi che l'accise sulla benzina è una tassa indiretta, nel senso che chi prende l'autobus e non la paga per niente, perché non compra la benzina. Vabbè. Poi ripeto, la cifra finale che lei ben ha identificato, cioè 20 euro all'anno, mi sembra che sia possibile. È un sacrificio che si può fare. Anche perché, ripeto, il problema sono i lavoratori dello spettacolo, di cui nessuno si interessa. No, ma sicuramente questo sì. Però, professor Lottieri, a me quello che ha colpito, che gli attacchi poi sono stati soprattutto ieri, a questa, le critiche Dei giornali come Libero, non so, titolo, ci tassano la benzina per pagare i filmetti. Vabbè, al di là del fatto, addirittura il giornale ha titolato ci pagano la benzina, ci tassano la benzina per fare lavorare Nanni Moretti. Non si capisce perché se la siano presi proprio con Nanni Moretti. Però il concetto è questo, è qualunquistico dire, come scrive ieri il Gramellini, perché non hanno accorpato il referendum con le elezioni amministrative che si risparmiavano, non so, 250 milioni di euro invece di colpire le accise. Certo, il punto è quello, cioè un governo che non riesce a individuare all'interno di questa voragine della spesa pubblica qualche voce di spesa da eliminare, che è costretto ancora una volta a fare la cosa più banale che si possa immaginare, cioè mettere le mani nelle tasche degli italiani, perché di questo si tratta, aumentando, come dire, la tassa più banale fra tutte, cioè l'accisa sulla benzina. Beh, un governo che, come dire, è veramente senza prospettive, a mio parere, come dire, che non sta facendo, come dire, bene in Italia. Inoltre questa scelta, come dire, di difendere i 400.000 lavoratori dello spettacolo, così come la scelta di difendere i notai nello privilegio dei farmacisti, gli agricoltori finanziati dall'Europa, i giornali di partito e no finanziati, eccetera, eccetera, ci racconta di due Italie, una sostenuta dallo Stato e l'altra invece di artigiani, di operai lasciati a casa quando un'azienda va male, che non hanno questo tipo di aiuto. Cioè questa è veramente una cosa scandalosa. Allora, la gente deve andare a casa. Gli italiani non danno i 20 euro per il film, quei lavoratori devono fare qualcosa per, diciamo, film, ma anche per, diciamolo, anche per Pompei, per i teatri, per la difesa del patrimonio culturale, perché molti scrivono anche i messaggi. Io mi imbestialisco quando sento un messaggio di uno che mi scrive: ma se i privati non sostengono, vuol dire che la cultura non è core business. Ma non si può giudicare il valore dei resti di Pompei solo con i termini del core business, perché altrimenti, insomma, facciamo uno scatto anche culturale, altrimenti chiudiamo tutto e ce ne andiamo. Romina da Caserta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Senta, io sono favorevolissima. A che cosa? A questo provvedimento. Contro tendenza, però tenendo in considerazione che la cultura in Italia, che sia patrimonio, che sia risorse umane, è il vero valore incondizionato dell'Italia ed è patrimonio mondiale. Detto questo, l'unico modo, tenendo anche in considerazione che c'è una gravissima evasione fiscale, recuperare quello che potrebbe essere una tassa per la cultura e che potrebbe essere facoltativa, è l'unico modo per far pagare a tutti indistintamente la tassa sulla cultura. Cioè lei metterebbe una tassa sulla cultura? Per sostenere la cultura, ovviamente. Una tassa di scopo, per sostenere la cultura. Esatto. Beh, questa un pochino lo è, insomma, aumentare l'accise per la cultura di fatto è una tassa di scopo, no? Quindi le sta bene questo, Romina? Mi sta benissimo, perché così nessuno si sottrae a quello che è il vero patrimonio culturale e sostenerlo, perché poi, tenendo in considerazione, ripeto, l'evasione fiscale, gravissima in età, altissima, è l'unico modo per recuperare indistintamente quello che è il sostegno. Va bene, la ringrazio Romina. Noi andiamo alle informazioni sul traffico, anche se, ripeto, ieri ancora Gramellini diceva non si capisce però il principio per cui in questo caso la politica, il governo, abbia chiesto un sacrificio piccolo, anche se vuole piccolo, come ha detto Gianni Letta, agli italiani, ma poi gli italiani vedono che la politica, quando si tratta di fare sacrifici, non è che la politica stessa si metta in prima linea, no? Quindi fate i sacrifici e poi noi ci penseremo tra un po'. Allora, la tassa sulla benzina per sostenere la cultura, di questo ci interroghiamo. Onorevole Carlucci, ci spieghi cos'è questa tax shelter che lei ha proposto per che cosa? Allora, io ho proposto per il cinema il tax shelter e il tax credit, e queste norme furono introdotte nella finanziaria 2007 grazie anche all'aiuto del senatore Bordon, perché allora c'era il governo Prodi, e queste misure fiscali, che semplicemente sono le migliori pratiche utilizzate in tutto il mondo per incentivare i privati, in questo caso ad investire nel cinema, sono state introdotte in Italia. Diciamo che sono due forme di incentivo: il tax credit sarebbe il credito d'imposta e il tax shelter sono gli utili detassati che vengono reinvestiti nella produzione cinematografica. Perfetto. Questo significa che sia tutti gli attori lavoratori della filiera cinematografica, quindi produttori, distributori ed esercenti, hanno un vantaggio nell'utilizzare le proprie tasse, sia gli esterni. Adesso le stesse misure io le ho introdotte, le sto introducendo per il mondo dello spettacolo, dal vivo, perché è giusto, perché i privati non investono in Italia e nel resto del mondo sì, perché i privati in Italia non hanno nessuna convenienza di investire perché non c'è attività. Insomma è un'agevolazione fiscale per chi reinveste gli utili nel settore. Questo sarà possibile, quindi sarà importante, si otterranno molti fondi privati che piano piano potrebbero anche andare a sostituire il finanziamento diretto dallo Stato, che è anche giusto come principio, però finché non ci sono gli incentivi fiscali e i privati non hanno interesse ad investire in questo settore, è ovvio che questo patrimonio culturale immenso deve essere sostenuto dallo Stato. Allora io prima di sentire ancora un paio di ascoltatori, sono tantissimi, professor Lottieri, le chiederei cosa ne pensa di questo principio del tax shelter e del tax credit, e cosa ne pensa anche di chi dice insomma, se la cultura non è core business, la signora cultura cammini con le proprie gambe e si faccia gli affari propri. Però sono d'accordissimo innanzitutto con lo tax shelter e tax credit, perché indubbiamente rispetto al FUS ad esempio non hanno un aspetto discrezionale, no? Cioè chiunque in questo mondo della produzione, attualmente nel cinema, un domani si spera anche nello spettacolo dal vivo, realizza profitti, riceve una riduzione fiscale, quindi c'è un ritrarsi dello Stato. Nell'altro caso invece abbiamo delle commissioni che stabiliscono quali siano le opere, i film da finanziare o i teatri, eccetera. Per quello che riguarda il core business, io penso che la cultura sia una cosa davvero troppo seria per lasciarla nelle mani dei politici. In altri termini, credo che la cattiva situazione in cui versa in larga misura il mondo della cultura in Italia sia proprio legata al fatto che abbiamo realtà come il FUS, che abbiamo un intervento dello Stato massiccio. Se non c'è un rapporto forte tra la società e il mondo della cultura, che è legato essenzialmente, questo rapporto forte deve essere legato da rapporti di mercato, difficilmente noi avremo una tutela seria. Insomma, se Pompei rimane in mano a agenzie analoghe alle Poste Italiane, per gestite la stessa efficienza. Ma questo infatti lo ha detto anche il ministro della cultura Neo Galan, che in un'intervista oggi alla stampa dice lì, per esempio a Pompei, che è il primo punto su cui interverremo con questi fondi, c'è anche un problema di degrado sociale e culturale, oltre che un problema di soldi. Se no uno i soldi li può mettere, ma se voglio dire, se li mette in una borsa bucata i soldi poi cadono sotto. Esattamente. Voglio sentire che ne pensa Antonio dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Dico. Senta, io premetto, non sono contro la cultura e non sono, diciamo, sono anche, mi piace anche per quei lavoratori che lavorano del settore. Come se chi è contro la cultura? Nessuno è contro la cultura. Per l'amor di Dio, non sono contro la cultura. Ma anzi, mi dispiace anche per quei lavoratori che hanno dei problemi, però non ci sono solo della cultura quei lavoratori che hanno dei problemi. Il problema per me è che è sbagliato è il metodo, perché cioè, a questo punto qua, allora perché non facciamo una CISE per le forze dell'ordine, una CISE per le forze armate, una CISE per chiunque, cioè in tutti i settori c'è sempre però io so solamente che questo Stato sta sempre aumentando le tasse. Adesso io dico, è iniqua la spesa, perché sono 20 euro all'anno, d'accordo, ma c'è anche chi in domani da quel centesimo ne approfitta per aumentare i prezzi perché è aumentata la benzina. Cioè, e tutto va a discapito di chi... Ma poi voglio dire, in Gran Bretagna abbiamo assistito pochi giorni fa, credo, al ministro che ha ridotto di un penny il prezzo del carburante, perché tra l'altro siamo in una situazione internazionale dove c'è una guerra, no? ce ne ricordiamo, no? Ci sono dei pozzi di petrolio, quindi proprio in questo momento suona anche un po'... come una ironica perfidia questa cosa dell'accisa, anche stimolante. Maurizio dalla provincia di Forlì Cesena, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Dice. Niente, io volevo solo ribadire un po' il concetto, insomma riportarlo dalla parte dei cittadini senza infilarci nei ragionamenti, insomma, difficili. Io so, almeno non è che sia un tecnico di questa cosa, ma mi risulta ci siano delle tasse, delle accise sulla benzina che a fronte di ce ne sono il 90% sono tutte tasse. Allora, adesso esempio, non so la percentuale. Mi dicesse l'elenco di queste tasse. Gliele dico? Le accise sulla benzina, lei paga le accise sulla benzina per la guerra d'Etiopia. Bravissimo. Per l'alluvione di Firenze, per il terremoto del Belice. Ecco, è così difficile, diciamo. diciamo così, cioè fare un qualche cosa che tolga l'Etiopia e ci metta la cosa sostituendola, quindi non creando la minima, diciamo così, il problema da nessuna parte. Ho capito, scusi. Ma no, ho capito Maurizio, però scusi, se lo Stato deve recuperare, che ne so, 100 euro, se ne chiede 100 e li toglie dall'altra parte. Ho capito, ma insomma L'Etiopia. Un po' di tempo è passato. Parlo di quella, ma ce ne sono altre. Sì, la tragedia del Vajont, il terremoto dell'Irpinia, la guerra in Bosnia. Se vogliono continuare a prenderci per da quella parte che sappiamo tutti, padronissimi, però insomma, dopo che non mi vengono a fare discorsi troppo difficili, prendiamo i lavoratori, insomma, riconduciamo tutta una cosa molto semplice, perché ogni discussione viene poi portata sempre, ci infiliamo in dei cul-de-sac, dicono qui in Romagna. Che poi sono anche, a anche a Parigi, lo dico, sono sempre molto difficili. Se arrivano tutti che ci spiegano tutti come funziona la vita, ma poi al giorno ci andiamo noi a fare. Però quando lei va al distributore, mettere quel centesimo per la guerra d'Etiopia, per la guerra d'Etiopia, proprio non le sta quale. 50 euro ormai non faccio in tempo a mettere il tubo che lo devo togliere, quindi insomma, volevo solo intervenire su questo. Va bene, ma ha fatto, sono d'accordo assolutamente, ha fatto bene, ha fatto bene. Cultura e turismo, se noi in Italia non usiamo queste due cose qui, io non capisco cosa vadano a cercare. Va bene, caro Maurizio, io la ringrazio, ho 30 secondi per concludere. Non so, professor Lottieri, sì, questa non l'abbiamo detta, delle accise varie, la guerra in Etiopia, il terremoto del Belice, alluvione di Firenze, è che quando si mette un'accisa uno dice: ma toglietela, a sto punto non serve più, non ha più uno scopo. Toglietela. Il problema è questo, lei citava prima Cameron, il penny di Cameron, ma Cameron qualche settimana fa ha annunciato un programma di riduzione della funzione pubblica di 500.000 unità. In Italia questo coraggio non c'è. Non c'è. Io mi devo fermare qui, saluto e ringrazio il professor Carlo Lottieri, che insegna all'Università di Siena e cofondatore dell'Istituto Bruno Leoni, e l'onorevole Gabriella Carlucci del Popolo della Libertà, per essere stati con noi a parlare di questo tema, che potete continuare ad affrontare con noi su Facebook, sul nostro 24 mattino. Entusiasta Alessandro Longoni dirà quando cito Facebook. Bene, siete sempre di più, andate sulla nostra pagina 24 mattino, ci sono foto, dialoghi, discussioni, dite la vostra, con Massimo della Libertà e col Massimo ovviamente del decoro. E allora, che dire, grazie anche a Elisabetta Fusconi in redazione con Alessandro Longoni e l'alpino Peter Bescapè, zaino già pronto per il weekend, penna nera già in vista. Io do la linea a Oscar. Aprite le porte che passano, aprite le porte che passano, i vecchi alpini. A lunedì.